Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le udienze, le molte udienze che Re Ferdinando aveva concesso al principe a Caserta, a Napoli, a Capodimonte, a Portici, a Casa del Diavolo. A fianco del ciambellano di servizio che lo guidava chiacchierando, con la feluca sotto il braccio e le più fresche volgarità napoletane sulle labbra, si percorrevano interminabili sale di architettura magnifica e di mobilio stomachevole, proprio come la monarchia borbonica. Il ciambellano lo pilotava verso l'anticamera riservata alla gente di corte, un ambientino azzurro e argento, e dopo una breve attesa un servo grattava alla porta e si era ammessi alla presenza augusta. Lo studio privato era piccolo e artificiosamente semplice. Sulle pareti imbiancate un ritratto di Re Francesco I e uno dell'attuale regina dall'aspetto inacidito. Al di sopra del caminetto una Madonna di Andrea del Sarto sembrava stupita di trovarsi contornata da litografie colorate rappresentanti santi di terz'ordine e santuari napoletani. Su di una mensola un bambino Gesù in cera con lumino acceso davanti e sulla immensa scrivania carte bianche, carte gialle, carte azzurre, tutta l'amministrazione del regno giunta alla sua fase finale, quella della firma di Sua Maestà, di G. Dietro questo sbarramento di scartoffie, il re, già in piedi per non essere costretto a mostrare che si alzava, il re col faccione smorto fra le fedine biondicce, con quella giubba militare di ruvido panno da sotto la quale scaturiva la cateratta violacea dei pantaloni cascanti, faceva un passo avanti con la destra già inclinata per il baciamano che avrebbe poi rifiutato. «Ne, Salina, beate quest'occhi che te vedono!» L'accento napoletano sorpassava di gran lunga in sapore quello del ciambellano. «Prego la vostra Real Maestà di voler scusarmi se non indosso la divisa di corte, sono soltanto di passaggio a Napoli e non volevo tralasciare di venire a riverire la vostra persona». «Salina, tu pazzia! Lo sai che a Caserta sei come a casa tua, sicuro!» ripeteva sedendo dietro la scrivania e indugiando un attimo a far sedere l'ospite. «E peccerelle che fanno?» Il principe capiva che a questo punto correva a piazzare l'equivoco salace e bigotto insieme. «Le peccerelle, maestà, alla mia età e sotto il sacro vincolo del matrimonio». La bocca del re rideva mentre le mani riordinavano stizzosamente le carte. «Non mi sarei mai permesso, Salina, io domandavo dei peccerelle tuoi, dei principessine, Concetta, la cara figlioccia nostra, deve essere grande ora, una signorina». Dalla famiglia si passò alla scienza. «Tu, Salina, fai onore non solo a te stesso ma a tutto il regno. Gran bella cosa la scienza quando non le passa pagava di attaccare la religione». Dopo, però, la maschera dell'amico veniva posta da parte e si assumeva quella del sovrano severo. «E dimmi, Salina, che si dice in Sicilia di Castelcicala?» Don Fabrizio si schermiva. Ne aveva inteso dir corna tanto da parte regia come da parte liberale, ma non voleva tradire l'amico, si manteneva sulle generalità. «Gran signore, gloriosa ferita, forse un po' anziano per le fatiche della luogotenenza». Il re si rabbuiava. Salina non voleva far la spia, Salina quindi non valeva niente per lui. Appoggiate le mani alla scrivania, si preparava a dar congedo. «Ha già tanto lavoro, tutto il regno riposa su queste spalle». Era tempo di dare lo zuccherino. La maschera amichevole rispuntò fuori dal cassetto. «Quando ripassi da Napoli, Salina, vieni a far vedere Concetta alla regina. Lo sa, c'è troppo giovane per essere presentata a corte, ma un pranzetto privato non ce l'impedisce nessuno. Maccarun e belle guaglioni, come si dice. Salutiamo, Salina, state buono». Una volta però il congedo era stato cattivo. Don Fabrizio aveva già fatto il secondo inchino al ritroso quando il re lo richiamò. «Salina, stiamo a scendere. Mi hanno detto che a Palermo hai cattive frequentazioni. Quel tuo nipote, Falconeri, perché non gli rimetti la testa a posto?» «Maestà, ma Tancredi non si occupa che di donne e di carte.» Il re perse la pazienza. «Salina, Salina, tu pazzi! Responsabile sei tu, il tutore. Digli che si guarda suo cuollo. Salutam!» Ripercorrendo l'itinerario fastosamente mediocre per andare a firmare sul registro della regina, lo scoramento l'invadeva. La cordialità plebea lo aveva depresso quanto il ghigno poliziesco. Beati quei suoi amici che volevano interpretare la familiarità come amicizia, la minaccia come possanza legale. Lui non poteva. E mentre palleggiava a pettegolezzi con l'impeccabile ciambellano, andava chiedendosi chi fosse destinato a succedere a questa monarchia che aveva i segni della morte sul volto. Il piemontese? Il cosiddetto galantuomo che faceva tanto chiasso nella sua piccola capitale fuori di mano? Non sarebbe stato lo stesso? Dialetto torinese invece che napoletano. E basta. Si era giunti al registro. Firmava Fabrizio Corbera, principe di Salina. Oppure la Repubblica di Don Peppino Mazzini. Ah, grazie. Diventerei il signor Corbera. E la lunga tappa del ritorno non lo calmò. Non poté consolarlo neppure l'appuntamento già preso con Cora Danolo. Stando così le cose, che restava da fare? Aggrapparsi a quel che c'è senza far salti nel buio. A loro correvano i colpi secchi delle scariche, così come erano rintronati poco tempo fa in una squallida piazza di Palermo. Ma le scariche, anch'esse, a cosa servivano? Non si conchiude niente con i pum pum. È vero, Bendicò? Din din din din! Faceva invece la campana che annunziava la cena. Bendicò correva con l'acquolina in bocca per il pasto pregustato. Un piemontese, tale e quale, pensava Salina risalendo la scala. La cena a Villa Salina era servita con il fasto sbrecciato, che allora era lo stile del regno delle due Sicilie. Il numero dei commensali, 14 erano fra padroni di casa, figli, governanti e precettori, bastava da solo a conferire imponenza alla tavola. Ricoperta da una rattoppata tovaglia finissima, essa splendeva sotto la luce di una potente carsella precariamente appesa sotto la ninfa sotto il lampadario di Murano. Massiccia l'argenteria e splendidi i bicchieri recanti sul medaglione liscio fra i bugnati di Boemia le cifre FD. Ferdinandus Dedit, il ricordo di una munificenza regale, ma i piatti, ciascuno segnato da una sigla illustre, non erano che dei superstiti delle stragi compiute dagli sguatteri e provenivano da servizi disparati. Quando entrò in sala da pranzo tutti erano già riuniti, la principessa soltanto seduta, gli altri in piedi, dietro alle loro sedie. Davanti al suo posto, fiancheggiati da una colonna di piatti, si slargavano i fianchi argentei dell'enorme zuppiera col coperchio sormontato dal gattopardo danzante. Il principe scodellava lui stesso la minestra, fatica grata, simbolo delle mansioni altrici del pater familias. Quella sera, però, come non era avvenuto da tempo, si udì minaccioso il tinnire del mescolo contro la parete della zuppiera, segno di collera grande ancor contenuta, uno dei rumori più spaventevoli che esistessero, come diceva ancora 40 anni dopo un figlio sopravvissuto. Il principe si era accorto che il 16enne Francesco Paolo non era al proprio posto. Thank you. Il ragazzo entrò subito. Scusatemi, papà. E sedette. Non subì rimprovero, ma padre Pirrone, che aveva più o meno le funzioni di cane da mandria, chinò il capo e si raccomandò a Dio. La bomba non era esplosa, ma il vento del suo passaggio aveva raggelato la tavola e la cena era rovinata lo stesso. Mentre si mangiava in silenzio, gli occhi azzurri del principe, un po' ristretti fra le palpebre semichiuse, fissavano i figli uno per uno e li ammutolivano di timore. Invece, bella famiglia, pensava. Le femmine, grassocce, fiorenti di salute, con le loro fossette maliziose e fra la fronte e il naso quel tale cipiglio, quel marchio atavico dei Salina. I maschi, sottili ma forti, maneggiavano le posate con sorvegliata violenza. Uno di essi mancava da 2 anni, quel Giovanni, il secondogenito, il più amato, il più scontroso. Un bel giorno era scomparso da casa e di lui non si erano avute notizie per 2 mesi, finché non giunse una rispettosa e fredda lettera da Londra nella quale si chiedeva scusa per le ansie causate, si rassicurava sulla propria salute e si affermava, stranamente, di preferire la modesta vita di commesso in una ditta di carboni anziché l'esistenza troppo curata, leggi incatenata fra gli agi palermitani. Il ricordo, l'ansietà per il giovinetto errante nella nebbia fumosa di quella città eretica, pizzicarono malvagiamente il cuore del principe, che soffrì molto, si incupì ancora di più. Si incupì tanto che la principessa, seduta accanto a lui, tese la mano infantile e carezzò la potente zampaccia che riposava sulla tovaglia, gesto improvvido che scatenò una serie di sensazioni: irritazione per essere compianto, sensualità risvegliata, ma non più diretta verso chi l'aveva ridestata. In un lampo al principe apparì l'immagine di Mariannina con la testa affondata nel guanciale. Alzò seccamente la voce. «Domenico!» disse un servitore. «Vai a dire a Don Antonino di attaccare i bai al coupé, scendo a Palermo subito dopo cena. Padre Pirrone, venga con me, saremo di ritorno alle 11. Potrà passare 2 ore a casa professa con i suoi amici». Andare a Palermo la sera, ed in quei tempi di disordine, appariva manifestamente senza scopo, se si eccettuasse quello di un'avventura galante di basso rango. Il prendere poi come compagno l'ecclesiastico di casa era offensiva prepotenza. Almeno padre Pirrone lo sentì così e se ne offese, ma naturalmente cedette. L'ultima nespola era stata appena ingoiata che già si udiva il rotolare della vettura sotto l'androne. Mentre in sala un cameriere porgeva la tuba a don Fabrizio e il tricorno al gesuita, la principessa, ormai con le lacrime agli occhi, fece un ultimo tentativo, quanto mai vano. «Ma Fabrizio, di questi tempi, con le strade piene di soldati, piene di malandrini, può succedere un guaio». Lui ridacchiò. «Sciocchezze, Stella, sciocchezze, cosa vuoi che succeda? Mi conoscono tutti. Uomini alti una canna, ce ne sono pochi a Palermo. Addio». E baciò frettolosamente la fronte ancor liscia che era a livello del suo mento. Però, sia che l'odore della pelle della principessa avesse richiamato teneri ricordi, sia che dietro di lui il passo penitenziale di padre Pirrone avesse destato ammonimenti pii, quando giunse dinanzi al coupé si trovò di nuovo sul punto di disdire la gita. In quel momento, mentre apriva la bocca per dire di rientrare in scuderia, un grido subitaneo: «Fabrizio, Fabrizio mio!» giunse dalla finestra di sopra, seguito da strida acutissime. La principessa aveva una delle sue crisi isteriche. «Avanti!» disse al cocchiere, e sbatté lo sportello prima che il cameriere potesse chiuderlo. Thank you. Non era ancora notte. Chiusa e incassata fra le alte mura, la strada si dilungava bianchissima. Appena usciti dalla proprietà Salina si scorgeva a sinistra la villa semidiruta dei Falconeri, appartenente a Tancredi, suo nipote e pupillo. Un padre scialacquatore, marito della sorella del principe, aveva dissipato tutta la sostanza ed era poi morto. Era stata una di quelle rovine totali durante le quali si fanno fondere financo i fili d'argento dei galloni delle livree. E dalla morte della madre, il re aveva affidato la tutela dell'orfana, allora quattordicenne, allo zio Salina. Il ragazzo, prima quasi ignoto, era divenuto carissimo all'irritabile principe, che scorgeva in lui un'allegria riottosa, un temperamento frivolo, a tratti contraddetto da improvvise crisi di serietà. Senza confessarlo a se stesso, avrebbe preferito avere lui come primogenito, anziché quel buon babbeo di Paolo. Adesso a 20 anni Tancredi si dava al bel tempo con i quattrini che il tutore non gli lesinava, rimettendoci anche di tasca propria. Quel ragazzaccio, chissà cosa sta combinando per ora, pensava il principe mentre si rasentava Villa Falconeri. Perché il re Ferdinando, quando aveva parlato delle cattive frequentazioni del giovanotto, aveva fatto male a dirlo, ma aveva avuto nei fatti ragione. Preso in una rete di amici giocatori, di amiche, come si diceva, scondottate, che la sua esile attrattiva dominava, Tancredi era giunto al punto di avere simpatie per le sette, relazioni col Comitato Nazionale Segreto. Forse prendeva anche dei quattrini da lì, come ne prendeva d'altronde dalla cassetta reale. E c'era voluto del bello e del buono, c'erano volute visite a Castelcicala scettico ed a Maniscalco troppo cortese per evitare al ragazzo un brutto guaio dopo il 4 aprile. Non era bello tutto ciò. D'altra parte Tancredi non poteva mai aver torto per lo zio. La colpa vera quindi era dei tempi, di questi tempi sconclusionati durante i quali un giovanotto di buona famiglia non era libero di fare una partita a faraone senza inciampare in amicizie compromettenti. Brutti tempi. Brutti tempi, eccellenza. La voce di padre Pirrone risuonò come un eco dei suoi pensieri. Guardi, eccellenza. E additava i monti scoscesi della Conca d'Oro ancor chiari in quell'ultimo crepuscolo. Ai loro fianchi e sulle cime ardevano diecine di fuochi, i falò che le squadre ribelli accendevano ogni notte, silenziosa minaccia alla città regia e conventuale. Vedo, padre, vedo. E pensava che forse Tancredi era attorno a uno di quei fuochi malvagi ad attizzare con le mani aristocratiche la brace che ardeva appunto per svalutare le mani di quella sorta. Veramente sono un bel tutore, col pupillo che fa qualsiasi sciocchezza gli passi per la testa. All'ingresso dei sobborghi della città, a Villa Airoldi, una pattuglia fermò la vettura. Voci pugliesi, voci napoletane intimarono l'alt. Smisurate baionette balenarono sotto l'oscillante luce di una lanterna. Ma un sottufficiale riconobbe presto Don Fabrizio, che se ne stava con la tuba sulle ginocchia. «Scusate, eccellenza, passate!» E anzi, fece salire a cassetta un soldato perché non venisse disturbato dagli altri posti di blocco. Il coupé appesantito andò più lento, contornò Villa Ranchibile, oltrepassò Terre Rosse e gli orti di Villafranca, entrò in città per Porta Macheda. Le strade erano deserte, risonanti solo del passo cadenzato delle ronde che andavano passando con le bandoliere bianche incrociate sul petto. Ai lati il basso continuo dei conventi, la badia del monte, le stimmate, i crociferi, i teatini, pachidermici, neri come la pece, immersi in un sonno che rassomigliava al nulla. Fra 2 ore ripasserò a prendervi, padre. Buone orazioni. Ed il povero Pirrone bussò confuso alla porta del convento, mentre il coupé si allontanava per i vicoli. Thank you.